occhi di cerbiatto impaurito dal vento che strappa le fronde d'argento. Occhi di cerbiatto che cercano qualcosa che non ritorna mai. Occhi che vedono quasi l'aurora sul fondo del mare. Vedono spazi che io non so nemmeno sognare. Magici spazi che portano oblio. Quando ti vedo, quando ti sfioro e poi tu. Occhi chiari di cerbiatto impaurito mi guardi e aspetti qualcosa di più che adesso non posso o non ho. E vedo una lacrima che nel silenzio rifrange l'arcobaleno e i tuoi occhi che graffiano l'anima mia. Corri, corri come a inseguire i tuoi sogni che col disgelo scappano via. Corri, corri e insegui la vita preziosa che non ritorna mai. Vita che volevi intrecciare alla mia. Tuo dito io trama. Si stringono i fili in un drappo che cinge di caldo e colori, spiriti eletti si sposano lì. Guardami amore, baciami ancora e poi tu. Occhi chiari di cerbiatto impaurito mi guardi e aspetti qualcosa di più che adesso non posso o non ho. E vedo una lacrima che nel silenzio rifrange l'arcobaleno e i tuoi occhi che graffiano l'anima mia. E vedo una lacrima che nel silenzio rifrange l'arcobaleno e i tuoi occhi che graffiano.